Lenzuola matrimoniali, disse a un uomo dietro un banco. E per dono della provvidenza, ciò che vendeva quell'uomo dietro quel banco erano proprio lenzuola matrimoniali. Perché la governante, no, quella governante era morta, quell'altra, la Bartolomeu, no, anche la Bartolomeu era morta. Louise, dunque. Ah, Louise era venuta da lei l'altro giorno tutta agitata, perché aveva trovato un buco in fondo al lenzuolo del letto reale. Molti re e regine ci avevano dormito. Elisabetta, Giacomo, Carlo, Giorgio, Vittoria, Edoardo. Non c'era da meravigliarsi che il lenzuolo avesse un buco. Ma Louise giurava di sapere chi l'aveva fatto. Era stato il principe consorte. Sale bocche, aveva detto, perché c'era stata un'altra guerra contro i tedeschi quella volta. Lenzuola matrimoniali, ripeté Orlando come in un sogno. Per un letto matrimoniale col copriletto d'argento, in una stanza arredata con un gusto che ora le pareva un po' volgare, con tutto quell'argento. Ma l'aveva arredata così quando aveva una passione per quel metallo. Mentre l'uomo andava a prenderle delle lenzuola matrimoniali, estrasse uno specchietto e un piumino da cipria. Le donne al giorno d'oggi non si mettevano tanto in soggezione, pensò mentre si incipriava con la massima disinvoltura, come quando si era sentita donna per la prima volta, distesa sul ponte della Enamored Lady. Con decisione dette al naso la sfumatura esatta. Benché avesse ormai 36 anni, non dimostrava davvero un giorno di più. Era ancora imbronciata, ritrosa, bella e rosea, come un albero di Natale con un milione di candele, aveva detto Sasha. Come quel giorno sul ghiaccio, quando il Tamigi era gelato ed erano andati a pattinare. «Il miglior lino d'Irlanda, signora», disse il commesso spiegando un lenzuolo sul banco, e avevano incontrato una vecchia che raccoglieva legna. Mentre palpava distrattamente il lino con le dita, una delle porte che separavano un reparto dall'altro si aprì e lasciò passare, forse dal reparto articoli fantasia, una folata di profumo cereo come di candele rosa, un profumo che si avvolgeva come una conchiglia intorno a una figura, di ragazzo o di ragazza. Giovane, snella, seducente, una ragazza, per Dio, in pelliccia, perle e pantaloni alla russa. «Ma infedele, infedele, infedele!» gridò Orlando. L'uomo se n'era andato. E tutto il negozio apparve affondare e ondeggiare sotto un'acqua gialla e vide lontano gli alberi della nave russa che prendeva il largo e poi, miracolosamente, forse la porta si era riaperta, la conchiglia creata dal profumo diventò una piattaforma. Un piedestallo da cui discese una donna grassa, impellicciata, meravigliosamente ben conservata, seducente, indiademata, l'amante di un granduca. Quella che appoggiata alle spallette del Volga aveva guardato degli uomini annegare mangiando dei sandwich e ora attraversava il negozio venendo verso di lei. «Oh, Sasha!» esclamò Orlando. «Era davvero un colpo vederla ridotta in quel modo!» Era diventata così grassa, così indolente. Chinò la testa sul lino, perché quell'apparizione di una donna grigia in pelliccia e di una ragazza in pantaloni alla russa, con tutti i profumi di candele di cera, di fiori bianchi e di antiche navi che si portava dietro, potesse passare inosservata alle sue spalle. «Ha bisogno di tovaglioli, asciugamani, strofinacci, signora?» insisté il commesso. E fu solo grazie alla sua lista che Orlando, dopo averla consultata, fu in grado di rispondere con ogni apparente compostezza che desiderava solo un'altra cosa al mondo, cioè dei sali da bagno che erano in un altro reparto. Ma scendendo di nuovo in ascensore, com'è insidiosa la ripetizione di una scena, venne di nuovo immersa in profondità sotto il presente. E quando l'ascensore sobbalzò al suolo, le sembrò di sentire una brocca rompersi contro la sponda di un fiume. Come cercando il reparto giusto, qualunque fosse, se ne stava lì, sommersa fra le borse, sorda agli inviti di tutti quei commessi educati, neri, ben pettinati, i quali, discendendo anch'essi, e alcuni di loro forse altrettanto orgogliosamente, da profondità di passato analoghe al suo, avevano preferito lasciar cadere l'impenetrabile schermo del presente, per apparire oggi dei semplici commessi di Marshall and Shelgrove. Orlando indugiava, titubante. Al di là delle grandi porte a vetri, vedeva il traffico di Oxford Street. Gli autobus sembravano accatastarsi gli uni sugli altri e poi separarsi d'un balzo. Così, quel giorno, i blocchi di ghiaccio beccheggiavano e si urtavano sul Tamigi. Un vecchio gentiluomo dagli scarpini bordati di pelliccia stava a cavalcioni su uno di essi. Se ne andava, le pareva di vederlo, invocando maledizioni sui ribelli irlandesi, Era sprofondato là dove c'era la sua automobile. Il tempo mi è passato sopra, pensò, cercando di riprendersi. Queste sono le prime avvisaglie della mezza età. Com'è strano, nessuna cosa è più unica. Prendo in mano una borsetta e penso a una vecchia fruttivendola prigioniera del ghiaccio. Qualcuno accende una candela rosa e vedo una ragazza in pantaloni alla russa. Se esco all'aperto, come faccio ora, e si mosse sul marciapiede di Oxford Street, che sapore è questo? Erbe aromatiche? Sento dei campanii di capre, vedo delle montagne, Turchia, India, Persia. Le vennero le lacrime agli occhi. Che Orlando si fosse allontanata un po' troppo dal presente forse sconcerterà il lettore, che ora la vede in procinto di salire in automobile con gli occhi pieni di lacrime e visioni di montagne persiane. E in effetti, non si può negare che chi pratica con maggior successo l'arte della vita, persone spesso sconosciute del resto, riesce in qualche modo a sincronizzare i 60 o 70 ritmi diversi che battono simultaneamente in ogni normale sistema umano, cosicché quando uno batte le 11 tutti gli altri suonano all'unisono. E il presente non costituisce mai una rottura violenta, né viene completamente inghiottito dal passato. Di costoro si può perfino dire che vivono esattamente i 68 e i 72 anni attribuiti loro dalla pietra tombale. Degli altri ne conosciamo alcuni che sono morti, benché attraversino forme di vita. Altri sono vissuti per centinaia d'anni, benché dicano di averne 36. La vera lunghezza di una vita umana, checché ne dica il dizionario, biografico, nazionale, è sempre discutibile. È una faccenda difficile il calcolo del tempo. Niente lo manda in corto circuito quanto il contatto con una qualsiasi arte. E può darsi che fosse proprio colpa del suo amore per la poesia che Orlando perse la lista delle compere e tornò a casa senza le sardine, i sali da bagno e gli stivaletti. Ma mentre metteva la mano sulla maniglia della portiera, il presente la colpì nuovamente al capo. 11 volte fu aggredita con violenza. Accidenti, esclamò, perché i colpi battuti da un orologio sono un grave trauma per il sistema nervoso. Tanto che per un po' non diremo nulla di lei se non che aggrottò lievemente le ciglia. Cambiò marcia alla perfezione e gridò come prima. Guardi dove va, non sa quel che fa? E allora si è deciso? Mentre l'auto filava, curvava, si infilava e scivolava, poiché era una guidatrice esperta, giù per Regent Street, per Haymarket, per Northumberland Avenue, attraversava il ponte di Westminster, a sinistra, dritto, a destra e ancora dritto. La Old Kent Road era molto affollata quel giovedì 11 ottobre 1928. La gente traboccava dal marciapiede. C'erano donne con la borsa della spesa. Bambini sciamavano. Negozi di stoffe facevano svendite. Strade si allargavano e si restringevano. Lunghe prospettive si contraevano rapidamente. Qui c'era un mercato, là un funerale. Qui un corteo con bandiere dalla scritta Ra-un, ma che altro? La carne era molto rossa, i macellai stavano sulla porta. Le donne non portavano quasi più tacchi. C'era amor. Vin, sopra un porticato. Una donna profondamente assorta stava alla finestra di una camera da letto. Apple John and Apple Bed, pompe fun. Nulla si poteva vedere per intero, né leggere dall'inizio alla fine. Quello di cui si vedeva l'inizio, ad esempio due amici che stavano per incontrarsi attraversando la strada, non si vedeva mai finito. Dopo 20 minuti, corpo e anima erano come pezzi di carta straccia gettati fuori da un sacco. E quella corsa in automobile fuori Londra somigliava davvero tanto alla frantumazione della personalità che precede l'incoscienza e forse la morte, che resta una questione aperta se Orlando in quel momento esistesse realmente. E l'avremmo abbandonata al suo destino, come una persona interamente dissociata, se non fosse che, infine, qui a destra si stese uno schermo verde contro il quale i pezzetti di carta caddero più lenti. E poi un altro schermo si stese a sinistra, per cui si videro i singoli pezzi volteggiare nell'aria. Poi gli schermi verdi si stesero continui su entrambi i lati, e la sua mente riacquistò l'illusione di contenere in sé le cose. E vide un casolare, un'aia e 4 mucche, tutto esattamente in grandezza naturale. A quel punto Orlando tirò un sospiro di sollievo, accese una sigaretta. E per un paio di minuti mandò boccate in silenzio. Poi, esitante, come se la persona che voleva potesse non esserci, chiamò: Orlando? Perché se ci sono, mettiamo 76 ritmi diversi che battono all'unisono nella mente umana. Quante persone diverse, Dio ci aiuti, abitano in un momento o nell'altro dello spirito umano? Alcuni dicono 2052, quindi è la cosa più naturale del mondo che una persona, appena si trovi sola, chiami Orlando? Se si chiama così, intendendo via via, non ne posso più di questo io, ne voglio un altro. Di qui gli stupefacenti cambiamenti che osserviamo nei nostri amici. Ma non sempre va tutto liscio. Per quanto uno possa dire, come Orlando, che si trovava in aperta campagna e presumibilmente aveva bisogno di un altro io, Orlando, l'Orlando di cui ha bisogno può non presentarsi affatto. Questi io, da cui siamo costituiti, sovrapposti gli uni agli altri come una pila di piatti in mano a un cameriere. Hanno altrove legami, simpatie, piccole leggi e diritti propri, chiamateli come volete, e molte di queste cose non hanno nome. Cosicché uno verrà solo se piove, un altro in una stanza con le tende verdi, un altro se non c'è la signora Jones, un altro se gli promettete un bicchiere di vino e così via. Ognuno può moltiplicare, secondo la sua esperienza, i patti diversi che i suoi diversi io hanno fatto con lui. E alcuni, si intende, sono esageratamente ridicoli anche solo per essere messi per iscritto. Dunque Orlando, alla curva vicino al fienile, chiamò Orlando con un tono interrogativo nella voce e attese. Orlando non venne. Va bene allora, disse, col buon umore che la gente mostra in queste occasioni, e provò con un altro io. Ne aveva una grande varietà da chiamare all'appello, molti più di quanti siamo stati in grado di ospitare, dato che una biografia si considera completa se si limita a render conto di sei o sette io, mentre una persona può averne migliaia, limitandosi a scegliere fra quelli che hanno trovato posto qui. Orlando avrebbe potuto chiamare il ragazzo che faceva cadere la testa del Moro, il ragazzo che la riappendeva, il ragazzo che sedeva sulla collina, il ragazzo che vide il poeta, il ragazzo che offrì alla regina la coppa d'acqua di rose. Avrebbe potuto chiamare il giovane che si era innamorato di Sasha, o il cortigiano, o l'ambasciatore, o il soldato, o il viaggiatore. O avrebbe potuto chiamare la donna, la zingara, la grandama, l'eremita, la ragazza innamorata della vita, la patrona delle lettere, la donna che chiamava Mar e intendeva bagni caldi e fuochi serali, o Shelmerdin e intendeva crochi nei boschi d'autunno, o Bonthrop e intendeva la nostra morte quotidiana, o tutti e tre insieme, e intendeva più cose di quanto abbiamo spazio per scrivere. Erano tutti diversi e avrebbe potuto chiamarne uno qualsiasi. Forse, ma quel che appare certo, siamo ora nella zona dei forse e degli appare, è che quello di cui aveva più bisogno rimaneva lontano, perché a sentirla parlare cambiava con la stessa velocità con cui guidava. Ce n'era uno nuovo ad ogni curva. Come accade quando, per ragioni inesplicabili, l'io cosciente che si trova in cima e ha il potere di desiderare, desidera soltanto essere un io unitario. È quello che alcuni chiamano il vero io, ed è, dicono, composto da tutti gli io che abbiamo in noi, comandati e custoditi dall'io capitano, dall'io chiave, che li amalgama e li sorveglia tutti. Doveva essere quello l'io che Orlando cercava, come il lettore potrà giudicare prestando orecchio ai suoi discorsi. Mentre guidava, e se è un discorso sconnesso, sconclusionato, banale, opaco e talvolta incomprensibile, è colpa del lettore che si mette ad ascoltare una signora che parla da sola. Noi riportiamo le sue parole alla lettera, aggiungendovi tra parentesi l'io che a parer nostro parla in quel momento, ma in questo potremmo anche sbagliarci. Allora cosa? Allora chi? Diceva Orlando. 36, in automobile. Una donna, sì, ma anche un milione d'altre cose. Snob, io? La giarrettiera nel vestibolo? I leopardi? I miei antenati? Orgogliosa di loro? Sì. Golosa, lussuriosa, viziosa? Io? Qui entrò un nuovo io. Me ne importa un fico se lo sono. Sincera? Credo di sì. Generosa? Oh, ma questo non conta. Qui entrò un nuovo io. Stare a letto la mattina ad ascoltare i piccioni fra lenzuola di puro lino e piatti d'argento, vini, cameriere, domestici, viziata? Forse, troppe cose per nulla. Da qui i miei libri. Qui citò 50 titoli classici che corrispondevano, supponiamo, alle sue prime opere romantiche che aveva distrutto. Disinvolta, spigliata, romantica, ma qui entrò un altro io, incapace, pasticciona. Più goffa non potevo essere e qui esitò cercando la parola e se le suggeriamo amore potremmo sbagliare, ma certo lei rise e arrossì ed esclamò: un rospo tempestato di smeraldi. Harry l'arciduca. Mosche blu bottiglia sul soffitto. Qui entrò un altro io. Manel, Kit, Sasha. Sprofondò nella malinconia, le spuntarono davvero le lacrime e da molto tempo aveva smesso di piangere. Gli alberi, disse. Qui entrò un altro io. Mi piacciono gli alberi, oltrepassava un boschetto che crescono lì da 1000 anni. E i fienili, oltrepassava un fienile in rovina al lato della strada. E i cani da pastore, eccone uno che attraversava di corsa la strada, lo evitò con cura. E la notte. Ma la gente. Qui entrò un altro io. La gente? Ripeté in tono interrogativo. Non so. Chiacchierona, sprezzante, sempre bugiarda. A questo punto svoltò nella strada maestra del villaggio natio, che era affollata, essendo giorno di mercato, di contadini, di pastori, vecchie con ceste di polli. Mi piacciono i contadini. Mi intendo di raccolti, ma qui un altro io le sorvolò la cima dello spirito come il raggio di un faro. Fama, rise. Fama. 7 edizioni, un premio, fotografie sui giornali della sera. Alludeva alla quercia e al Burdett Coutts Memorial Prize che aveva vinto. E dobbiamo rubare un po' di spazio per constatare com'è sconcertante per il biografo che questo culmine a cui tendeva tutto il libro, questa perorazione che doveva concluderlo, ci venga strappato e liquidato così disinvoltamente con una risata. Ma la verità è che quando si scrive di una donna tutto è fuori posto. Culmini e perorazioni. L'accento non cade mai dove cade con un uomo. Fama, ripeté Orlando. Un poeta, un ciarlatano, tutti e due ogni mattina, puntuali come la posta. Pranzare, incontrarsi, incontrarsi, pranzare, fama, fama. Qui dovette rallentare per attraversare la calca sulla piazza del mercato. Ma nessuno le badò. Un delfino nella bottega di un pescivendolo attirava molto di più l'attenzione di una nobildonna che aveva vinto un premio e che avrebbe potuto, volendo, portare 3 corone una sopra l'altra, sulla fronte. Procedendo molto lentamente, ora canticchiava, come se fosse il ritornello di una vecchia canzone: con le mie guinee comprerò delle azalee, delle azalee, delle azalee, e camminando tra i fiori racconterò ai miei figli che cosa sono gli allori. Così canticchiava. E ora tutte le sue parole piombavano giù come i chicchi grevi di una collana barbarica. E camminando tra i fiori, cantava, scandendo forte le parole. Vedrò il sorgere lento della luna e i carri passare nella bruma. Qui si fermò di colpo e, profondamente assorta, fissò lo sguardo davanti a sé sul radiatore dell'automobile. Era seduto al tavolo di Twitchett, rimuginava, e aveva un colletto sporco. Era il vecchio Baker, venuto per misurare il legname? O era Ashpri? Quando diciamo a noi stessi i nomi per cui abbiamo una profonda reverenza, non li diciamo mai per intero. Per 10 minuti guardò davanti a sé, lasciando che l'automobile quasi si fermasse. Ossessa! Gridò, premendo improvvisamente sull'acceleratore. Ossessa, fin dall'infanzia! Eccola là che vola, l'oca selvatica. Passa davanti alla finestra e vola verso il mare aperto. Balzavo su e afferrò più stretto il volante e mi tendevo ad afferrarla, ma vola troppo rapida. L'ho vista, qui, là, là. Inghilterra, Persia, Italia. Sempre vola veloce verso il mare e sempre io le getto dietro parole come reti. E fece con la mano il gesto di scagliare, che si afflosciano, come ho visto afflosciarsi le reti tirate sul ponte con dentro solo alghe. A volte c'è un pizzico d'argento, 6 parole, in fondo alla rete. Ma mai i grandi pesci che vivono nei banchi di coralli. Qui chinò il capo, profondamente assorta, e fu in quel momento, quando ebbe smesso di chiamare Orlando e si fu immersa in altri pensieri, che l'Orlando invocata venne di sua volontà, come rivelò il mutamento che sopraggiunse in lei. Aveva attraversato la cancellata ed entrava nel parco. Tutto il suo essere si oscurò e si assestò, come quando una lamina aggiunta a una superficie la rende tornita e solida. E i vuoti si approfondiscono, e il vicino si fa lontano, e tutto è racchiuso come l'acqua dalle pareti di un pozzo. Così ora lei fu incupita, placata, e con l'aggiunta di questa Orlando diventò quello che a torto o a ragione si chiama un io unico, un io reale. E tacque. Perché è probabile che quando le persone parlano a voce alta, il loro io, ce ne possono essere più di 2000, siano consapevoli della scissione e cerchino di comunicare, ma quando la comunicazione è stabilita, tacciono. Rapidamente, con mano maestra, Orlando risalì il viale sinuoso fiancheggiato da olmi e querce, poi il declivi erboso del parco, la cui pendenza era così lieve che se fosse stato acqua avrebbe sommerso la spiaggia in una morbida marea verde. Qui, in gruppi maestosi, si ergevano faggi e querce, tra i quali saltellavano i daini, l'uno bianco come la neve, l'altro con la testa piegata da un lato, perché le corna gli si erano impigliate nella rete. Osservò tutto questo. Gli alberi, i daini, il prato, con immensa soddisfazione, come se il suo spirito fosse diventato un fluido che avvolgeva le cose e le racchiudeva completamente. Un minuto dopo sboccò in quel cortile che per tanti secoli, dove per tanti secoli era entrata, a cavallo in tiro a sei, preceduto o scortata da cavalieri. Dove pennacchi si erano agitati, torce avevano fiammeggiato e dove gli stessi alberi da fiore, che ora lasciavano cadere le foglie, anno per anno avevano scosso le gemme. Ora era sola. Cadevano le foglie dell'autunno e il portiere le aprì la cancellata. «Giorno, James», disse. «Ci sono delle cose in auto, volete portarle dentro?» Parole senza alcuna bellezza, interesse o significato, lo ammettiamo, ma ora così cariche di senso che cadevano come noci mature dall'albero. Prova che, quando la pelle grinzosa del quotidiano è infarcita di significato, soddisfa i sensi in maniera straordinaria. Ora, questo era vero per ogni movimento e azione, per quanto consueti fossero. Perciò, a vedere Orlando cambiarsi in meno di 3 minuti la gonna con un paio di calzoni di saglia e una giacca di pelle, c'era da restare incantati dalla bellezza del movimento, come se Madame Lopokova avesse sfoggiato la sua arte più perfetta. Poi entrò decisa nella sala da pranzo dove i suoi vecchi amici Dryden, Pope, Swift e Edison la guardarono dapprima gravemente, come per dire: «Ecco la vincitrice del premio!» Ma quando rifletterono che si trattava di 200 guinee, fecero con la testa un cenno di approvazione. 200 guinee, pareva dicessero, 200 guinee non sono da buttar via. Si tagliò una fetta di pane e una di prosciutto, le buttò uno sopra l'altra e cominciò a mangiare, camminando su e giù per la stanza, scuotendosi così di dosso, in un secondo, senza pensarci, le sue maniere mondane. Dopo 5 o 6 giri vuotò un bicchiere di vin rosso di Spagna e se ne riempì un altro, e tenendolo in mano si avviò a gran passi per il lungo corridoio e per una dozzina di saloni e iniziò così un pellegrinaggio nella casa, seguita da quei levrieri e spaniel che vollero seguirla. Anche questo rientrava nella routine. Tornare a casa e non visitarla tutta sarebbe stato come partire senza dare un bacio alla nonna. Si immaginava che le stanze al suo entrare si illuminassero, che si sgranchissero, che aprissero gli occhi come se in sua assenza avessero sonnecchiato. Si immaginava anche, per quanto le avesse viste centinaia, anzi migliaia di volte, che non fossero mai le stesse, come se in un'esistenza lunga come la loro avesse immagazzinato una miriade di stati d'animo che cambiavano con l'inverno e l'estate, col bello e il cattivo tempo, a seconda delle sue vicende e del carattere di chi le visitava. Cortesi coi forestieri lo erano sempre, ma un po' apatiche. Con lei, invece, si aprivano interamente ed erano a loro agio, e perché no? Si conoscevano da quasi 4 secoli, non avevano nulla da nascondersi. Conosceva i loro dolori e le loro gioie, sapeva l'età di ogni loro parte e i suoi piccoli segreti. Un cassetto nascosto, un armadio mascherato o anche qualche difetto come una parte restaurata o aggiunta. E anche loro conoscevano ogni suo umore e mutamento. Non aveva nascosto loro nulla. Era venuta da loro ragazzo e donna, piangendo e danzando, pensosa e gaia. Nel vano di quella finestra aveva scritto i primi versi. In quella cappella si era sposata e qui sarebbe stata sepolta, pensò, chinandosi sul davanzale della finestra della lunga galleria e sorseggiando il vin di Spagna. Benché non riuscisse a immaginarlo, il leopardo araldico avrebbe gettato sul pavimento pozze di luce gialla il giorno in cui l'avrebbero calata a giacere fra i suoi antenati. Lei, che non credeva in nessuna forma di immortalità, non poteva fare a meno di sentire che la sua anima si sarebbe aggirata per sempre fra i rossi dei pannelli e i verdi del divano. Quella stanza, era entrata nella camera da letto dell'ambasciatore, scintillava come una conchiglia rimasta per secoli in fondo al mare. Incrostate di pinta di mille sfumature dalle acque. Era rosa e gialla, verde e color sabbia. Era fragile, come una conchiglia e altrettanto iridescente e vuota. Nessun ambasciatore vi avrebbe mai più dormito. Oh, ma sapeva dove batteva ancora il cuore della casa. Aprendo piano una porta, restò sulla soglia in modo che la stanza, immaginò, non potesse vederla. E vide l'arazzo sollevarsi e ricadere alla brezza lieve che non cessava mai di muoverlo. Ancora il cacciatore galoppava, ancora Daphne fuggiva. Il cuore batteva sempre, pensò, anche se debole, anche se remoto. Il fragile, indomabile cuore dell'immensa dimora. Ora, chiamando la muta dei cani, percorse la galleria, pavimentata di lunghe assi di quercia. File di poltrone dai velluti sbiaditi erano schierate lungo la parete. E tendevano i braccioli per Elisabetta, per Giacomo, forse per Shakespeare, per Cecil, che non venivano mai. Quella vista la rattristò, staccò il cordone che le delimitava e sedette sulla poltrona della regina. Aprì un manoscritto che era sul tavolo di Lady Betty, passò le dita tra gli antichi petali di rosa, si spazzolò i capelli corti con le spazzole d'argento di Re Giacomo, si dondolò sul letto. Ma nessun re vi avrebbe mai più dormito, malgrado le lenzuola nuove di Louise. E premette la guancia contro il liso copriletto d'argento. Ma ovunque c'erano dei sacchettini di lavanda contro le tarme e cartellini con la scritta «Si prega di non toccare», che sebbene ce li avesse messi lei, sembravano respingerla. La casa non era più interamente sua, sospirò. Ora apparteneva al tempo, alla storia. Era oltre il possesso, oltre il controllo dei vivi. Qui più nessuno avrebbe versato birra per terra, pensò, era nella camera che era stata del vecchio Nick Green, e nessuno avrebbe più bruciato i tappeti con la pipa. Mai più 200 servi sarebbero corsi vociando per i corridoi, con bracieri e grossi ceppi per i grandi caminetti. Mai più si sarebbe fatta fermentare la birra, si sarebbero fabbricate candele, cucite selle, tagliate pietre nelle botteghe intorno alla casa. Martelli e magli ora tacevano. Le poltrone e i letti erano vuoti. I boccali d'argento e d'oro erano chiusi nelle vetrine. Le grandi ali del silenzio battevano per tutta la casa vuota. Sedette in fondo alla galleria, coi cani accucciati intorno sulla dura poltrona della regina Elisabetta. La galleria si estendeva fin dove la luce quasi moriva. Era un tunnel che sprofondava nel passato. Scrutandovi dentro, vide gente che rideva e parlava. I grandi che aveva conosciuto, Dryden, Swift e Pope, e statisti a colloquio, e coppie che amoreggiavano nei vani delle finestre. E gente che mangiava e beveva a lunghi tavoli, e il fumo della legna si avvolgeva in spire intorno alle loro teste, facendoli starnutire e tossire. Più lontano ancora, vide gruppi di splendidi ballerini pronti per la quadriglia. Si levò una musica di flauti, esile, eppure maestosa. Un organo rombò. Una bara veniva portata in cappella. Ne usciva un corteo nuziale. Uomini armati, l'elmo in testa, partivano per la guerra. Riportavano i vessilli di Flodden e di Poitiers. E li appendevano ai muri. Così la lunga galleria si riempiva e, aguzzando ancora lo sguardo, le parve di scorgere proprio in fondo, dietro gli elisabettiani e i Tudor, un personaggio più antico, più lontano, più oscuro. Una figura incappucciata, monastica, severa, un monaco che camminava a mani giunte intorno a un libro, mormorando. Come un tuono, l'orologio delle scuderie batté le 4. Mai terremoto demolì con tale forza un'intera città. La galleria e tutti i suoi occupanti caddero in polvere. Il viso di lei, che mentre guardava era affondato nell'ombra, fui illuminato come da un'esplosione. In quella luce, ogni cosa circostante apparve con estrema nettezza. Vide due mosche che roteavano e distinse le venature azzurre dei loro corpi. Vide un nodo nel legno dove posava il piede e l'orecchio del cane rizzarsi. Al tempo stesso udii lo scricchiolio di un ramo nel giardino, una pecora che tossiva nel parco, lo strido di una rondine davanti alla finestra. Il corpo le tremava e le formicolava come se si trovasse di colpo nuda nel gelo più crudo. Pure rimase padrona di sé, come non aveva fatto allorché l'orologio aveva battuto le 10 a Londra. Ormai era una e intera, e forse presentava una superficie più ampia all'urto del tempo. Si alzò, ma senza precipitazione. Chiamò i cani e, decisa, ma con grande agilità, scese le scale e uscì in giardino. Qui le ombre delle piante avevano una nitidezza prodigiosa. Distinse nelle aiole i granelli di terra, come se avesse un microscopio nell'occhio. Vedeva l'intrico dei rametti di ogni albero. Ogni stelo d'erba era distinto, e così le venature delle foglie e dei petali. Vide Stubbs, il giardiniere, venire lungo il sentiero e distinse ogni bottone delle sue ghette. Vide Betty e Prince, i cavalli da tiro. E mai aveva notato tanto chiaramente la stella bianca in fronte a Betty e i tre crini più lunghi degli altri nella coda di Prince. Nel cortile quadrato, le vecchie mura grigie della casa sembravano una fotografia nuova graffiata. Sentiva l'altoparlante riversare sulla terrazza un motivo di danza che la gente ascoltava a Vienna tra i velluti rossi dell'opera. Tesa e incalzata dal momento presente, provava anche uno strano timore. Come se ogni volta che l'abisso del tempo si apriva per lasciar passare un secondo, qualche nuovo pericolo dovesse accompagnarlo. Quella tensione era troppo continua e forte per poterla sopportare a lungo senza angoscia. Si mosse, più risoluta di quanto volesse, come se le gambe le si muovessero da sole, attraverso il giardino ed entrò nel parco. Qui, con grande sforzo, si costrinse a fermarsi davanti alla bottega del falegname e restò immobile a guardare Joe Stubbs che costruiva una ruota di carro. Era là che fissava la sua mano quando suonò il quarto. La trapassò come una meteora così rovente che nessun dito avrebbe potuto toccarla. Vide con ripugnante chiarezza che al pollice destro di Joe mancava l'unghia e che al suo posto c'era un'escrescenza di carne rosea. Quella vista era così ripugnante che per un attimo si sentì mancare, ma quell'attimo di oscurità in cui sbatté le palpebre la sollevò dall'oppressione del presente. C'era qualcosa di insolito nell'ombra che gettava quel vibrare di palpebre, qualcosa che, ognuno può constatarlo dal solo alzando gli occhi al cielo, è sempre assente dal presente, da cui il suo terrore, la sua natura indefinibile, qualcosa il cui corpo tremiamo di trafiggere con un nome e chiamarlo bellezza perché non ha corpo, è un'ombra senza sostanza e qualità specifica, eppure ha il potere di mutare qualsiasi cosa a cui si aggiunga. Quell'ombra, mentre sbatteva gli occhi sentendosi mancare, ora si insinuò e fondendosi con le innumerevoli impressioni visive che aveva ricevuto, le compose in qualcosa di tollerabile e comprensibile. La mente le si agitò come il mare. Sì, pensò con un profondo sospiro di sollievo, mentre si allontanava dalla bottega del falegname e si avviava su per la collina. Posso ricominciare a vivere. Sono sulle rive del Serpentin, la barchetta si fa strada attraverso l'arco bianco di mille morti. Sono sul punto di capire. Queste furono le sue parole, pronunciate molto distintamente, ma non possiamo nascondere che ora lei era una testimone estremamente indifferente della verità di ciò che le stava davanti e avrebbe potuto facilmente scambiare una pecora per una mucca o un certo vecchio Smith per un Jones che non aveva nulla a che fare con lui. L'ombra di svenimento gettata da un pollice senz'unghia si era inabissata al fondo del suo cervello, la parte più recondita, in uno stagno dove le cose erano immerse in un'oscurità così fitta da essere appena decifrabili. Immerse lo sguardo in quello stagno, o mare in cui tutto si riflette, C'è chi dice che tutte le nostre passioni più violente e l'arte e la religione sono il riflesso di ciò che vediamo in quell'oscura cavità in fondo al cervello, quando il mondo visibile è temporaneamente oscurato. Vi guardò a lungo, intensamente, profondamente, e subito il sentiero tra le felci che percorreva salendo la collina cessò di essere totalmente un sentiero e diventò anche il serpentin. Le siepi di biancospino divennero anche signore e signori seduti con portabiglietti e bastoni dal pomodoro. E le pecore erano anche le alte case di Mayfair. Ogni cosa era anche qualcos'altro, come se la sua mente fosse diventata una foresta sparsa di radure. Le cose si avvicinavano, si allontanavano, si mescolavano e si separavano, formando le più strane alleanze e combinazioni in una scacchiera incessante di luce e ombra. Se Canuto, il levriero, non si fosse messo a rincorrere un coniglio e non le avesse ricordato che dovevano essere quasi le 4:30, in realtà erano le 6:23 minuti, avrebbe scordato il tempo. Il sentiero di felci saliva con molte curve e meandri su, su, fino alla quercia che si levava in cima. L'albero si era fatto più grosso, più robusto e più nodoso da quando lo aveva visto le prime volte intorno al 1588. Ma era ancora nel suo pieno vigore. Le piccole foglie aguzze dai bordi increspati ondeggiavano ancora folte sui rami. Gettatasi a terra, sentì l'ossatura dell'albero diramarsi a raggiera sotto di lei, come costole da una spina dorsale. Le piaceva pensare di essere a cavallo del mondo, le piaceva appoggiarsi a qualcosa di duro. Nel distendersi le cadde dalla tasca della giacca di pelle un libricino quadrato, rilegato in tela rossa. Il poema La quercia. Avrei dovuto portare una banga, rifletté. La terra sopra le radici era così scarsa che dubitò di potervi seppellire il libro, come era sua intenzione. E poi i cani lo avrebbero dissotterrato. Questi riti simbolici, pensò, non hanno mai fortuna. Forse sarebbe stato meglio farne a meno. Aveva sulla punta della lingua un discorsetto da pronunciare sul libro. Sotterrandolo, era un esemplare della prima edizione firmato dall'autore e dall'illustratore. Seppellisco questo come tributo, avrebbe detto. Restituisco alla natura ciò che la natura mi ha dato. Ma Dio mio, come suonavano stupide le parole appena si dava loro forma ad alta voce. Ricordò il vecchio Green che qualche giorno prima da un palco l'aveva paragonata a Milton, tranne per la cecità, e le aveva consegnato un assegno di 200 guinee. In quel momento aveva pensato alla quercia sulla sua collina. Che cos'hanno a che fare con la poesia, la lode e la celebrità? Cos'hanno a che fare 7 edizioni, a tanto era già arrivato il libro, col valore della poesia? Scrivere poesia non era una transazione segreta, una voce che risponde a una voce. Tutte quelle chiacchiere e lodi e critiche e l'incontrare gente che vi ammira e gente che non vi ammira non si adattavano affatto alla cosa in sé. Una voce che risponde a una voce. Cosa poteva esserci di più segreto, di più lento e simile a un colloquio di amanti, del balbettio con cui per tutti quegli anni aveva risposto all'antica ninna nanna dei boschi, delle fattorie e dei cavalli bruni, fermi testa a testa davanti allo steccato, e delle fucine e delle cucine e dei campi laboriosamente fecondi di grano, di rape, di fieno, e dei giardini rigogliosi di iris e de fritillarie. Così lasciò il suo libro insepolto, aperto al suolo, e osservò l'ampio panorama, quella sera vario come il fondo dell'oceano, illuminato dal sole e incupito dalle ombre. C'era un villaggio con un campanile tra gli olmi, le cupole di un maniero grigio in un parco, una scintilla di luce sui vetri di una serra, una fattoria con dei covoni di grano giallo. I campi erano punteggiati di ceppi scuri e dietro ai campi si stendevano vasti boschi e c'era il luccichio di un fiume e poi ancora colline. Lontano all'orizzonte le rupi di Snowdon spuntavano bianche tra le nubi. Vide le colline lontane della Scozia e i flutti selvaggi turbinanti intorno alle Ebridi. Si aspettò di sentire un rimbombo di cannone sul mare. No! Soffiava solo il vento. Non c'era guerra oggi. Drake era sparito, Nelson era sparito. E qui, pensò riportando gli occhi alla terra sottostante, c'era la mia terra, un tempo. Quel castello tra le dune era mio e tutta la brughiera che arrivava fin quasi al mare era mia. In quel momento il paesaggio, per uno scherzo della luce del giorno morente, si scosse, si sollevò, si scrostò dai fianchi aguzzi tutto quell'ingombro di case, castelli e boschi. Davanti a lei c'erano i monti brulli della Turchia. Folgorava mezzogiorno. Guardò dritto sul fianco delle colline riarse. Le capre brucavano le zolle sabbiose ai suoi piedi. Un'aquila si librò sopra di lei. La voce rauca del vecchio Rustum, lo zingaro, le gracchiava all'orecchio. Che cos'è la vostra antichità, la vostra razza, i vostri possessi in confronto a questo? A che vi servono 400 stanze e i coperchi d'argento su tutti i piatti e le cameriere che spolverano? In quel momento il campanile di una chiesa suonò a distesa giù nella valle. Il paesaggio tenda crollò e sprofondò. Ancora una volta il presente le si rovesciò addosso, ma con meno violenza di prima, ora che la luce morente non faceva più distinguere alcun dettaglio, alcun particolare. Ma solo campi brumosi, casolari illuminati, la massa sonnolenta di un bosco e un ventaglio di luce che respingeva davanti a sé l'oscurità lungo un sentiero. Non sapeva dire se fossero suonate le 9, le 10 o le 11. Era scesa la notte che sempre aveva amato, la notte in cui i riflessi, nello stagno buio della mente, brillano più luminosi che di giorno. Ora non c'era più bisogno di smarrire i sensi per guardare a fondo nell'oscurità in cui si formano le cose, per vedere nello stagno della mente ora Shakespeare, ora una fanciulla in pantaloni alla russa, ora una barchetta sul serpentin. E infine l'Atlantico, là dove, oltre il Capo Horn, infuria con onde enormi. Guardò nel buio. Là, sulla cresta di un'onda, c'era il brigantino di suo marito. Saliva, saliva sempre più alto. L'arco bianco dalle mille morti gli si levò davanti. Ah, uomo temerario, ridicolo! Sempre così vanamente intento a doppiare il Capo Horn in piena tempesta. Ma il brigantino attraversava l'arco e ne usciva dal lato opposto. Era salvo, finalmente. Estasi! Gridò. Estasi! E poi il vento cadde. Le acque si placarono e vide le onde incresparsi pacifiche al chiar di luna. Marmaduke, Bonthrop, Shelmerdine, gridò in piedi accanto alla quercia. Il bellissimo nome scintillante cadde giù dal cielo come una piuma dai riflessi d'acciaio. La guardò cadere volteggiando, roteando come una freccia lenta che fende superba l'abisso dell'aria. Come sempre, egli veniva nei momenti di calma assoluta, quando l'onda si increspava e le foglie maculate le cadevano sul piede nei boschi d'autunno. Quando il leopardo era immobile, quando la luna sovrastava le acque e nulla si muoveva fra cielo e mare, allora egli veniva. Ora tutto era quieto. Era quasi mezzanotte. La luna si alzò lenta sulla foresta. La sua luce fece sorgere in terra un castello fantasma. Là si levava la grande casa con tutte le finestre ammantate d'argento. Né mura né sostanza, tutto era fantasma. Tutto era silenzio, tutte le luci erano accese come per l'arrivo di una regina morta. Guardando laggiù, Orlando vide ondeggiare nel cortile pennacchi neri e torce tremolare e ombre inginocchiarsi. Ancora una volta una regina scendeva dal cocchio. «La casa è vostra, signora!» esclamò inchinandosi profondamente. «Nulla è cambiato, il defunto lord mio padre vi farà strada». Mentre parlava, risuonò il primo colpo della mezzanotte. La brezza fredda del presente la colpì in viso col suo alito di paura. Guardò ansiosa il cielo. Ora era buio di nubi. Il vento le urlava nelle orecchie, ma nel rombo del vento udì un rombo di aeroplano farsi sempre più vicino. «Qui, Shell, qui!» gridò, denudando il seno alla luna, che ora splendeva vivida, e le sue perle vi brillarono come le uova di un enorme ragno lunare. L'aeroplano uscì dalle nubi e fu sopra il suo capo. Aleggiava sopra di lei nell'ombra. Le perle erano un fuoco fosforescente. E quando Shelmerdin, divenuto Divenuto ora un bel capitano di mare, robusto, colorito e vigoroso, balzò a terra. Dietro il capo gli si alzò in volo un uccello selvatico. «È l'oca!» gridò Orlando. «È l'oca selvatica!» E suonò il dodicesimo rintocco di mezzanotte. Il dodicesimo rintocco di mezzanotte, giovedì 11 ottobre 1928. Fine.